Annuncio, ci vado io. Annuncio di chi? Sì, Sarti Maria, di Roma. Peso 60 kg, altezza 1,70, dalla prosa al varietà. Tiene mutande. Ma Maria, queste cose tu non le puoi fare, tu non hai provato. E fammici pure provare. Vai! Ma Maria, non si possono fare queste cose. E vai! Signore e signori, buonasera. Segatura per il signore. Dopo il felice debutto di poco fa, il teatro vi offre un'altra sorpresa. Il debutto di una celebre artista di prosa che per passione e slancio Bettigna per chi osava si è decisa a darsi al varietà. Ed ora, signore e signori, la celebre attrice ed artista Maria Sarti da Roma. Posizione giusta. Hai visto? Quando fai il movimento giusto il popolo sta zitto. Ma se lo sapete tu? Parliamone. Con discrezione. Chi c'è? Il capitano, hai visto? Ma come non stavi a cavallo te stamattina? Che sei cascato? Tutte così a Roma? No, io sono peggio. È per questo che mi mandano in giro sola. Forse per lei è preferibile la prosa. E per te è preferibile che non ti dico quello che penso. Calma, capitano, basso. Che sarà mai? Noi qui siamo tutti buoni e tranquilli, vero? Gli volevo tutti bene a chi comanda, vero? Che sta dicendo? Chi sei? Soffia de mamma, mentre te sei d'origine ignota. Eccoli. Vai, maestro? Ma dove vado? Ma come dove vai? Nini Tirabuchon, musica di Gambardella, parola di un amico mio. No, io sono la peggio. Soffia de mamma, mentre te sei d'origine ignota. Noi qui siamo tutti buoni e tranquilli, vero? Gli volevo tutti bene a chi comanda, vero? Soffia de mamma, mentre te sei d'origine ignota. No, io sono la peggio. Noi qui siamo tutti buoni e tranquilli, vero? Gli volevo tutti bene a chi comanda, vero? No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. No, io sono la peggio. Ragazzi se ne vanno via da questa Roma, da questa Italia, in giro per il mondo, vanno in India, vanno a New York, in Stati Uniti, in Sud America. Così io tantissimi anni fa me ne sono andato anch'io da questa Roma e da questa Italia. E me ne andavo da questa Roma addormentata, questa Roma puttanona, borghese, fascistoide. La Roma del volemo se bene andiamo avanti, questa Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta. Quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei sudì, dei lupini, dei maritozzi con la panna, senza panna, delle mosciarelle. Me ne andavo da quella Roma dei pizzicaroni, dei portieri, dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti. pagamenti ai quali non sarei mai puntuale, dei pagamenti che non vengono effettuati, quella roba dei funzionari, dei ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella roba dove le domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione, me ne andavo da quella roba dei pisciatori, delle Vespasiane, delle fontanelle, degli ex voli, quella roba della circolare destra, circolare sinistra, delle mille chiese, delle cattedrali, dentro le mura, fuori le mura, quella roba delle suore, dei frati, dei vecchi, dei campi, me ne andavo da quella roba con gli artici, con la vista, la Roma di Piazza Bologna, di via Veneto, di via Gregoriana, quella d'Annunziana, quella barocca, quella di giorno, quella di notte, la Roma dell'orchestrina, piazza e sera, la Roma di propaganda e fine, la Roma fascista di via Centini, me ne andavo da quella Roma che ci invidiano tutti, la Roma del Colosseo, dei fori imperiali, di piazza Navona, di Campo dei Fiori, quella Roma sempre col sole, estate, inverno, quella Roma che è meglio di Milano. Me ne andavo da quella Roma dove la gente pisciava per le strade, quella Roma fedente, impiegatizia, dei mezzi liti, della coda alla vaccinara. Quella Roma dei ricchi bottegai, degli annetti, di cugini per trenta, di monte, di sciossi, di castignani, da Vegna. Quella Roma dove non c'è il lavoro, dove non c'è la lira, quella Roma del cuore di Roma. Commerciale italiana del Monte di Pietà, del Campo dei Fiori, di Piazza Farnese, quella Roma che c'è una sigaretta, presta 200 lire. Me ne andavo da quella Roma del Cori, del concorso ippico, del Mono che portava e porta ancora il nome di Mussolini. Me ne andavo da quella Roma di merda, mamma Roma, addio. E poi sono tornato. Guarda che macchina, 6.000 di cilindrata, doppio carburatore. Questa fai 160 e noi 20 in discesa. Hai visto? Che cosa? È nato maschietto. Non ti intenerire troppo, è un futuro padrone. Quel maschietto so io. Ogni compleanno faccio attaccare il nastro azzurro sulla punta più alta del cancello. È un'usanza che mi aiuta a mantenermi vivo e vegetale. Ecco. Di un po', tu saresti, diciamo, il giovane di bottega del grande avvocatone La Rosa? Avvocato Gianni Perego. E venite proprio il giorno della festa mia a pugnalarmi dietro la schiena. Il grande patrocinatore in Cassazione è stato eletto deputato e per non dare adito a critiche mi ha scaricato con la banale scusa che avrei commesso i seguenti reati: corruzione dei pubblici sottufficiali, frodi svariate, costruzioni illecite, diciamo, di mio arbitro, raggiro dell'altrui incredulità, false licenze comunali, peculato, che io non so manco che bordì, barcarotta flautolenta, 7 appropriazioni indebiti e che altro, 11 approfitti di regime. 5 atti in falso pubblico, 15 rimozioni di segnali di pubblico pericolo, sì, e 2 operai morti nei suoi cantieri per mancata applicazione delle norme di sicurezza. E beh? Ah, certo. A uno come lei può sembrare incredibile che esista chi rifiuta di difenderla, che ci sia qualche sprovveduto capace di rinunziare al guadagno. Beh, esiste. E poi che fate, ne vai? A Perego, sei democratico? Oh, dico, sei democratico? Sei democratico? E allora vado a far parlare, figlio. Giovane avvocato, tu ti puoi rifiutare di difendere a me, ma io non di difendere a me stesso. Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero? Sì. E invece no. È il ricco, capisci? Il ricco è più solo perché è più raro. I poveri sono tanti, tutti amici, sempre assieme, ci lazzaroni che non te fanno più campare. Come disse nostro Signore Gesù? Egli disse: beati i poveri che si metteranno a sede alla mia destra. Mo, se non ci fossero i ricchi che fregano i poveri, e i poveri non esisterebbero, e Gesù, insomma, io dovrebbe rimanere a sede da solo, diciamo, come un povero Cristo, se mi spiego. Papà? Oh! Ah, papà! Te! Ha detto così mamma, è ora di andare, che ci aspettano là, a Bonfernita. Beh, sì, vabbè, ma prima porta la coppa a s'avvocato. La coppa? Col pane casareccio. Ma quale pane casareccio? No, la coppa del pizzicarolo, via. Una coppa per bevere alla mia salute. Ah, di schiumante. Subitissimo. Prego. Una coppa per bevere alla mia salute. Ah, di schiumante. Mo, se non ci fossero i ricchi che fregano i poveri, e i poveri non esisterebbero, e Gesù, insomma, io dovrebbe rimanere a sede da solo, diciamo, come un povero Cristo, se mi spiego. Ah, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, rischiamante, sposa bambina costretta all'altare, famiglia allargata che vive d'esterti e terre promesse, ti fermi ai semafori e cerchi nei cassonetti qualcosa da mangiare o qualcosa da rubare. Roma che ride a crepapelle, aspetti al tuo angolo il prossimo round, una campanella che suona, all'ultima ora saltammo la scuola per andare a bere, finisci alle corte perché non hai più sete, non hai più occhi per vedere. Roma, offrimi una sigaretta, ho finito il tabacco, guarda, mi sono davanti a te e mi specchio dentro. Roma, che non hai più speranze né fede, né preghiere a pomeriggio, né rosari da recitare, non te batti il petto tre volte, non te lavi il cappello quando entri in chiesa, né in fila per due quando fai la tua spesa. Roma, le casse di birra, doppio malto in offerta, le risse fuori dai locali, butta fuori che non te fanno entrare, scade il disco radio del parcheggio, non parte la macchina e prendiamo il notturno per tornare a casa, ma quale casa? Roma è un lungo Tevere pieno di buche che sembrano braccia spalancate dei tossici, branchi avvelenate dei pesci, banche popolari che non danno mutui, che non prestano soldi, che non fanno nomi, che non fanno cognomi. Roma per grazia ricevuta a Tiburtino Terzo, via delle zoccolette, via di Ripetta, via della femmina morta. Roma delle case occupate, dei Monica Vitti e Remo Remosi, dei vicoli bui, del Quirinale, del Campidoglio, degli Andreotti, i suoi conflitti, dei ricchi sfonnati e dei relitti, di chi beato di Cenocchio, le mani fugate, le tasche vuote. I fuchi agli garzini che tesce il titone, i garzolari, i veri vecchi, le corse col fiatone. Roma della Caritas de Colle Oppio, della stazione Ostiense, del gianicolo illuminato che scende a San Pietro, della pizza rossa e di quella con le patate, di chi la fa meglio, di chi la fa peggio, dei supplì al telefono, dei carciofi alla giudia, dei filetti de baccalà, delle canne rollate, le strisce de coca acchittate sui cofani ancora caldi, delle macchine appena spente. Passami quella canna che te sei magnato del pollo, chi la riccia la piccia e siamo tutti fratelli, anche se non se conoscemo, anche se non c'avemo niente da fa o da disse, anche se una parola è poca e due sono troppe, sono veramente troppe. Tirare quel grilletto ti ha fatto sentire potente. Il potere non te lo dà un istintivo o una pistola. Il potere te lo danno le bugie. Grandi di bugie e convincere il mondo a parteggiare per te. Se riesci a far accettare a tutti quello che in cuor loro sanno essere falso, li tieni per le palle. Grandi di bugie e convincere il mondo a parteggiare per te. Tirare quel grilletto ti ha fatto sentire potente. Il potere non te lo dà un istintivo o una pistola. Il potere te lo danno le bugie. Grandi di bugie e convincere il mondo a parteggiare per te. Se riesci a far accettare a tutti quello che in cuor loro sanno essere falso, li tieni per le palle. Grandi di bugie e convincere il mondo a parteggiare per te.

Marianne è la più piccola ad averla presa in gestione ed oggi che è al giorno libero l'ha lasciata a Marco, il fratello più grande, che di solito si occupa della contabilità e dei rapporti con i fornitori. Marianne e Marco Zaffiro sono un punto di riferimento per tutti i tossici del quartiere e oltre. Rivendono a prezzi stracciati metadone, siringhe, lacci emostatici, senza una regolare impegnativa. Ma gli violenti caroselli di fronte alla farmacia ormai sono all'ordine del giorno. I tossici e le tossiche si azzuffano tra loro a cadenza regolare. Tanto che i condomini dei piani di sopra e dei palazzi di fronte sono esasperati da tempo. E hanno piazzato un enorme lenzuolo bianco proprio sulle loro teste. Principessa Zaffiro Troia, scritto con un pennarello rosso e calligrafia da stadio, attira l'attenzione delle automobili che sfrecciano veloci lungo tutta la via Tiburtina. Gli ora basta, siamo stufi, si sovrappongono ai dateci la roba, stiamo in fila da due ore. Il comitato dei condomini alza la voce, via il cert da Santa Maria del Soccorso e pietralata libera. La situazione è tesa, qualcuno chiama le guardie, qualcuno una truppa del TG Regione per denunciare l'accaduto, qualcuno vorrebbe organizzare un'intifada armandosi di sanpietrini e bastoni per le tende. Ma i tossici si dispongono a mezzaluna di fronte alle vetrine della farmacia Zaffiro. A mo' di cordata intrecciano i gomiti uno all'altro creando uno scudo umano tipo guerra del golfo. La sassaiola improvvisata dal comitato di quartiere a vita breve si disperde. Nessuno si aspettava una reazione del genere, il sangue di quelli era intriso di un'enorme gratitudine. Pietralata libera. Sono a casa. Sono a casa. L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi, uomini, l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti! Voi, uomini, l'avete distrutta! Voi, uomini, l'avete distrutta! Maledetti! L'avete distrutta! Maledetti per l'eternità! Fatto il solito giochetto, sapessimo quante volte l'abbiamo fatto, non ve dovevate fidare, sono sbirri. Hanno ammazzato il barone Scorpio! pure il barone More. Questo è inutile ammazzarli. Te fregano pure dopo morti. È inutile. Già vanno vendicato, visto, cotto e magnato. Ma chi sarà stato? Io. Eh? Col coltello. Oh, io non so niente, a me non mi avete detto niente. Ma che state? Che cazzo c'è? Ma che l'hanno rubato? Ma che hanno ammazzato il barone Scarpia? Hanno ammazzato il barone Scarpia? Sì, lo so, è stata lei. Andiamo! Ma che è? Ma come chi è? Tosca! Ma che Tosca? Una mala figlia con la madre! Quello se la rendevo col barone. E ma ora se ne è chiuso. Non ve dovevate fidare. So sbirri. Non ve dovevate fidare. So sbirri. Non ve dovevate fidare. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri. So sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri, so sbirri. Va bella, hai detto Roma, con noi non te ce metti, ma quale strada batti, se posso sapere che aspetti, per cui mo state zitta, non di fior de granato. Io me sarò sbagliata, ma almeno ci ho provato. Bisogna usare cervello. Abbada, che caschi. Non casco, me butto. Una coppa per bevere alla mia salute. Ah, deschiumante.